America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuto in America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero. I think we've done a good job, and the public is the one that really deserves the credit, not the administration, because they're the ones that pay the taxes, they're the ones that elect the officials, they're the ones that keep people in office, so they're the ones that, and the other ones that benefit as well. Michael Bloomberg, il sindaco, non dimentichiamolo, c'è un nuovo sindaco che ha vinto, ma comincerà soltanto a gennaio. Nel frattempo governa, guida, il re incontrastato della città resta lui, questo miliardario. Il suo patrimonio è stimato in circa 11-12 miliardi di dollari, qualcuno dice anche di più, che si deve preparare un futuro, deve prepararsi a fare qualche cosa, perché uno che è stato attivo come lui alla guida della più importante città del mondo, poi che fa? Certo Bloomberg non lo vediamo ai giardinetti. But I believe important encourage every effort to share the experiences, to share also the events, because we can together work for the new ideals for Europe. Matteo Renzi, sindaco invece in carica con altre ambizioni. Beh, e perché collego Matteo Renzi e Bloomberg? Perché sono incontrati il 24 settembre scorso, ormai sono quasi due mesi, a Londra, con il sindaco di Londra e con il sindaco di Varsavia. Hanno fatto una lunga chiacchierata e in una lunga intervista Time Magazine Bloomberg ha detto: voglio fare delle cose che nessun altro sta facendo. Beh, considerando il suo patrimonio, sono sicuro che riuscirà a farle queste cose. E che cosa ha fatto dopo questo incontro con questi sindaci? Beh, ha voluto lanciare un concorso, attenzione, non come sindaco della città, ma come grande filantropo, perché una delle direzioni principali in cui si muoverà il sindaco Bloomberg quando avrà lasciato la guida della città di New York sarà quello della filantropia. Diventerà un po' un nuovo Gates, diventerà un nuovo Warren Buffett. E ha cominciato con cosa? Ha cominciato proprio con un premio dedicato, destinato a quello che lui crede di conoscere meglio, cioè la gestione di una città. Questo premio è un premio piuttosto interessante perché è complessivamente di 9 milioni di dollari, 9 milioni di dollari del suo patrimonio personale, per premiare quelle che sono, secondo lui, le idee più innovative in materia di governance locali. E c'è un primo premio. Il primo premio è di 5 milioni di dollari. Ci sono poi 1 milione ciascuno per altri 4 premi minori. Ci saranno dunque 5 città vincitrici. Come funziona? Beh, funziona che le città si devono iscrivere, devono dire che cosa hanno fatto, i sindaci devono cercare di fare la loro campagna elettorale e politica per cercare di aggiudicarsi una buona posizione. È stata creata, è stata annunciata una commissione che deciderà la città vincitrice, perché non è che Bloomberg poi dice io so tutto e decido io. Ha cercato di fare le cose per bene. Tra i 12 membri di questa commissione c'è anche un italiano, l'architetto Carlo Ratti di Torino. I've always tried to, in my company, hire people that are smarter than me. I've never understood why anybody is afraid to do that, quite the contrary. And I hope that the next administration takes what we've built and uses it to go to things that we hadn't even thought about or didn't think were possible. Ecco, è stato lo stesso sindaco che ha spiegato come sarà selezionato il finalista. Allora, intanto la commissione dovrà aiutare a selezionare 20 finalisti e poi i 5 vincitori. Ci sono dei criteri precisi che ha stabilito Bloomberg e che la commissione dovrà applicare e rispettare. Sono 4 criteri: la visione, quanto l'idea è stata innovativa, l'impatto, potenziale di impatto di questa idea, trasferibilità, c'è una possibile replica di questa idea che ha cambiato il volto della città in altre città, implementazione, cioè messa in opera, la qualità del piano, appunto, di realizzo, di realizzazione di questa idea. Io vi ho elencato questi 4 criteri in modo che voi stessi possiate pensare se nella vostra città c'è stato un elemento di visione, di impatto, di trasferibilità, di implementazione, per cui il vostro sindaco, la vostra città possono anch'essi partecipare a questa gara. Quali sono le regole? Beh, intanto possono partecipare città europee, perché questo prima per ora è per l'Europa. Bloomberg si rende conto che abbiamo bisogno di un po' di stimoli alla crescita e dunque cerca di fare anche lui nel suo piccolo, 9 milioni di dollari sono meglio di niente, qualche cosa. Ci vogliono, per poter partecipare, almeno 100.000 residenti nella città. L'idea deve riguardare la soluzione di un problema serio, deve migliorare il servizio dei cittadini, aumentare significativamente l'efficienza del governo locale. Le città che vogliono partecipare devono registrarsi entro il 31 gennaio del 2014, quando Bloomberg sarà già fuori dal suo incarico di sindaco. Bene, l'anno scorso c'era stata una gara simile per gli Stati Uniti, per i sindaci delle città americane. Aveva vinto Providence in Rhode Island. Qual era l'idea? L'idea era colmare il word gap, cioè quel gap di parole, di linguaggio, di capacità di formulare delle frasi compiute per bambini che provengono da famiglie a basso reddito. Perché è stata scelta questa particolare missione della città di Providence a Rhode Island? Perché secondo i dati statistici che riguardano le possibilità di crescita anche da un punto di vista intellettuale, di carriera futura dei bambini, uno dei principali indicatori per la futura performance universitaria di questi bambini è proprio il word gap. Fino a quando questo gap sulla parola, sulla capacità di formulare il linguaggio non sarà colmato per questi ragazzini che provengono da famiglie in difficoltà, il loro futuro universitario sarà molto difficile. Dunque, un premio in effetti molto bello, la sfida è importante, fatevi venire qualche idea, parlate ai vostri sindaci e soprattutto candidatevi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Pensate che un'università del New Jersey ha lanciato un corso di studio universitario sul rapporto fra testi sacri e le canzoni di Bruce Springsteen. Perché, insomma, sembra che ci siano dei collegamenti e si è deciso di indagare su come Springsteen abbia interpretato la Bibbia. E dunque, di Bruce Springsteen, Promised Land, a voi anche una interpretazione. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.